24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'attesa per il supermercoledì europeo. Nella stessa giornata la Corte Costituzionale tedesca si esprimerà sul fondo salva stati. Il commissario al mercato interno Michel Barnier presenterà il proprio piano di vigilanza bancaria su scala continentale. Il presidente della Commissione, Josep Barroso, terrà il discorso sullo stato dell'Unione e infine si voterà in Olanda. In Francia intanto il presidente François Hollande annuncia il piano lacrime e sangue per risanare il bilancio. Oggi vi portiamo infine pure a Cipro per parlare di occupazione giovanile. C'è grande attesa, come dicevamo, in Europa per il supermercoledì in programma domani. In una sola giornata la Corte Costituzionale tedesca darà il suo parere sul fondo salva stati permanente ISM. Il presidente della Commissione europea, Josep Barroso, terrà davanti al Parlamento europeo a Strasburgo il suo annuale discorso sullo Stato dell'Unione, facendo un'analisi della situazione attuale e delle prospettive future, e il commissario al mercato interno, Michel Barnier, presenterà le sue proposte per dare vita a un meccanismo unico di vigilanza bancaria per l'area euro, proteggendo l'integrità del mercato unico. Sempre mercoledì è in programma un importante appuntamento elettorale con i cittadini olandesi chiamati alle urne. Vogliamo salvare l'euro a tutti i costi perché i soldi che spenderemmo in caso di crollo sarebbero molti di più di quelli necessari per salvare i paesi in difficoltà. Così Diederik Samson, leader del partito laburista, in grande crescita nei sondaggi a soli 4 giorni dalle elezioni anticipate in Olanda. Secondo l'ultima inchiesta pubblicata da The Telegraph, il Labour ha praticamente appaiato i liberali del PVV guidati dal premier uscente Mark Rutte. Fino a sabato i pronostici ci lo davano indietro di un seggio rispetto a Rutte. Poi l'istituto Ipsos ha rivisto i dati sulla corsa olandese ed ora i laburisti del PDVA e i conservatori del VVD, entrambi a 35 seggi, formano una quasi maggioranza del 50% in una Camera dei Deputati che di seggi ne mette a disposizione 150. I due partiti, entrambi europeisti ma con sfumature diverse, sono indicati come alleati per forza nel futuro governo, per formare il quale si prevedono lunghe trattative e si pronostica la necessità di cooptare anche i democratici liberali di sinistra, D66, che stando ai sondaggi darebbero altri 11 seggi ad una maggioranza altrimenti davvero troppo risicata. Il tradizionale alleato dei conservatori, il Partito Cristiano Democratico, appare ormai in crisi e in netto calo tra gli elettori che non gli perdonano l'alleanza con lo xenofobo Wilders. Restano indietro ora i socialisti antirigoristi di Emil Römer, quello che insiste sul fatto che Bruxelles per le sue misure dovrà imporle sul suo cadavere, e così il populista xenofobo appunto Geert Wilders, responsabile in aprile della caduta del governo di Mark Rutte. Un voto, quello olandese, che coinvolge meno del 2% dei cittadini europei, ma che viene considerato foriero di gravi conseguenze per tutta l'area del nord. Gigi Donnelli, GR24, Sole 24 Ore. E je vais fixer un agenda du redressement. 2 ans. Con un intervento in diretta televisiva, il presidente socialista francese François Hollande ha annunciato 20 miliardi di tasse in più per il prossimo anno per le famiglie e le imprese. Uno sforzo enorme per tutti, ma necessario per ridurre il deficit pubblico al 3% del PIL. Questo nonostante una crescita rallentatore prevista attorno all'1%. In totale il giro di vite per il 2013 supererà i 35 miliardi, considerati anche i tagli alle spese dello Stato per 10 miliardi. Hollande ha ripetuto che l'aumento delle tasse riguarda innanzitutto i più fortunati fra aziende e famiglie, e ha spiegato di non voler prendere misure che possano scoraggiare i consumi, uno dei motori dell'economia francese. I redditi superiori ai 150.000 euro saranno tassati al 45%, quelli superiori al milione al 75%, ma solo per la parte eccedente questa somma. È durato meno di un'ora e si è concluso con un nulla di fatto il programmato incontro tra il premier greco Antonis Samaras e i rappresentanti della Troica internazionale. Fonti vicine al governo hanno rivelato che la Troica è rimasta sostanzialmente sulle sue posizioni e che non sembra essere stata convinta dalle argomentazioni del premier ad adottare misure alternative nei tagli necessari a risanare il bilancio. La situazione della Slovenia è grave, ma il paese può farcela senza bisogno di ricorrere all'aiuto dei fondi salva stati dell'Eurozona, lo ha assicurato il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker dopo un incontro bilaterale con il premier sloveno Janez Janša a Lussemburgo. Janša ha assicurato da parte sua che Lubiana ha tutto il potenziale per uscire dalla crisi da sola. E i mercati si sono presi una pausa ieri con una seduta interlocutoria. Milano, negativa dopo il peggioramento delle stime sul PIL italiano, è riuscita comunque a chiudere a ridosso della parità. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso in rialzo a 363 punti, in risalita anche lo spread spagnolo. Si apre a Cipro la conferenza giovanile dell'Unione Europea. Dall'inizio della crisi, secondo Eurostat, la disoccupazione tra gli under 25 è salita al 50% nell'Eurozona, con picchi del 53,8% in Grecia e del 52,9% in Spagna. Dall'inizio della crisi, secondo Eurostat, la disoccupazione degli under 25 è salita al 50% nell'area euro, con picchi del 53,8% in Grecia e del 52,9% in Spagna. Sono molto preoccupata per gli effetti che la crisi può avere sui giovani, ha dichiarato Andrulla Vassiliu, commissaria europea responsabile di istruzione, cultura, multilinguismo, gioventù e sport. I giovani sono il futuro e il mio obiettivo è intensificare le politiche nel campo dell'educazione per aumentare le loro possibilità lavorative e prospettive di vita, ha aggiunto la commissaria europea. Ci sono tuttavia segnali positivi. Pressoché tutti gli Stati membri stanno lavorando alla Youth Strategy con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle attività giovanili in tutti i campi. Per prima cosa, la Commissione europea intende potenziare il portale EURES per favorire l'incontro di domanda ed offerta. Altro capitolo è il supporto al Lifelong Learning Program. È possibile seguire un'ampia parte della conferenza dal vivo sul portale europeo dei giovani. L'apertura domani e la chiusura dei lavori il 13 settembre saranno trasmessi via streaming. Il premier Mario Monti ha incontrato l'omologo della Bosnia-Erzegovina, Vjekoslav Bevanda, prima della partenza per Roma. Monti ha incontrato anche i tre membri della presidenza tripartita del paese balcanico. La storia di Sarajevo, ha affermato il presidente del Consiglio, dimostra che mai la convivenza pacifica, armoniosa e costruttiva è acquisita per sempre, ma richiede una manutenzione psicologica e politica continua. E in questo momento in Europa questa manutenzione è necessaria. Siamo convinti che la Bosnia-Erzegovina costituisca un tassello molto importante anche per quello che storicamente rappresenta del processo di allargamento dell'Unione Europea. La Bosnia può arricchire l'Europa allargata con le sue peculiarità storiche, culturali, etniche e religiose. L'Italia vuole aiutare e sta aiutando la Bosnia-Erzegovina, è già molto intensa la cooperazione bilaterale tra i nostri due paesi. Recenti iniziative come la fondazione di Confindustria Bosnia-Erzegovina possono portare a un ulteriore rafforzamento sia degli scambi sia degli investimenti. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la firma dell'accordo bilaterale sulla cooperazione economica e anche nel campo bancario la presenza, come è noto, di gruppi bancari a base italiana copre circa il 30% del complessivo mercato della Bosnia. Ma è importante che anche nei confronti dei paesi che appartengono e appartengono da tempo all'Unione Europea, l'Unione Europea abbia la capacità di unire e non di dividere. L'indagine aperta dai servizi antitrust comunitari nei confronti di Gazprom non prende di mira la Russia, ma riguarda il comportamento di una società. Così il portavoce del commissario europeo alla concorrenza Joachim Almunia ha risposto alle accuse del presidente russo Putin, secondo cui Bruxelles vuol far pagare a Mosca la crisi economica in cui versano i paesi dell'Europa centro-orientale. La Commissione europea ha assegnato all'Italia finanziamenti pari a 27,737 milioni di euro per la realizzazione di 6 progetti nazionali e 4 transnazionali nell'ambito del bando 2011 per le reti di trasporto transeuropee TEN-T. Tra questi la Torino-Padova, i nodi di Genova e Bologna e la sezione di Treviglio dell'alta velocità. Bruxelles ha selezionato in totale 74 progetti per migliorare le infrastrutture dei trasporti comunitari, cui andranno complessivamente 200 milioni di euro in cofinanziamento. E il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos ha suggerito al collega responsabile per gli OGM John Dalli di mettere sul tavolo proposte riguardo la coesistenza in Europa tra le produzioni convenzionali e quelle OGM ed è pronto a dargli tutto il suo appoggio. Lo ha dichiarato lo stesso Ciolos a margine del Consiglio informale dei ministri dell'agricoltura europei in corso a Nicosia. Era questa l'ultima notizia di 24 ore in Europa, un grazie a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. È tutto per il nostro appuntamento, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.